col 10? Ora? Ora me. Ciao, bello. Aspetta, Luca, cambio radio. Mi senti bene con questo? Andato, però. Sto usando male, ma come sei tu, Nem? Allora. Perché sei tutto... Sto parlando il microfono. Guarda, Robè. Adesso va bene. Io come sto uscendo? Questo è grande, mi dico. Va bene. No, è che ha fatto le connessioni a un amico in una static. Volevo solo vedere, sono abbassato a 2. No, la radio è bella, è pulita. Con che radio è? Con 14. Sta andando alla grande. Ho fatto le connessioni a static, quello che c'ha la griglia cromata davanti, dai. Bella, chiara e pulita. E questo come sta uscendo con le MC60? È un bel forte. Ma troppo che cosa rispetto all'altro, a 44? Non devi urlare. C'è una propagazione allucinante, poco fa non manda laterale, 9.40, stava arrivando da Avignone, questo qua è francese, anche se è nato in Francia, però di origine è italiano, parlava molto bene l'italiano. Poi c'è la Guadalajara, l'altro giorno c'è la Romania, adesso stanno chiamando, avanti chi chiama l'Italia, avanti. E poi lei sta parlando in italiano, ok? Davanti il compagno di Scucci d'Italia che chiama. Riprendi tu là. Ho visto i fittizi, carichi fittizi che stai dando, Luca. Cos'è? Vabbè. Ho visto il carico fittizio che stai vendendo. Sì, mi ha finito uno per Giulio. Devi riapprenderselo. Ma le resistenze tu le stai già prendendo già a coso, calibrate? No, io le facevo tipo a ombrello, dai, le mettevo di lì e poi le faccio, ma ne ho uno da qualche parte ma non riesco a trovarlo, sarà stato 200 watt a bagno d'oro, un mezzo barattolo da mezzo chilo in una latta, avevo messo il PL e poi le resistenze a bagno d'olio. Ho fatto, ma non meno, quanti anni facciamo? Non meno di 30 anni fa l'avevo fatto, però non me lo ritrovo più. Ma questo è uno di resistenza, capito? Non sono tante resistenze. Quanto tiene? Cioè, da 250 lo posso fare da 500, da 1000. Tu metti un'unica resistenza, quindi? Esatto. Fino a 800, dai, un'unica resistenza. E dimmi una cosa, è il barattolo quanto, da mezzo chilo o da chilo? Questo è il piccolo, da 250. Per questi va bene, poi da 500 in su, da mezzo litro è un litro. Ma metti olio motore, stiamo parlando, cosa metti? Olio di vasellina, olio motore. Ah, no, io mettevo olio motore. Sì, vabbè, molti usano anche l'olio d'oliva. Vabbè, olio d'oliva no, perché l'olio d'oliva alle alte temperature, dopo secondo come lo fa scaldare la resistenza, se hai potenza fai danno, ma l'olio motore riesce ad arrivare a temperature molto ma molto alte, per cui rimane fluido, ecco, bisogna sigillarlo bene però. Certo, questo non perde, anche perché il connettore è stagnato, capito, al tappo. Sì, anche io faccio, no, ho visto un bel lavoro, mi hai messo anche l'etichetta, ho visto. Sì, mi sono fatto anche le etichette, più carino, aspetta ti mando la foto di questo. E che cacchio ho fatto il coso, se no ti avrei fatto fare un lavoretto sul plexiglass, è già tutto collegato all'impianto del camper, ti avrei fatto fare una cubicatura su un coso, che ormai cacchio, vorrebbe smontarlo, ci vuole troppo tempo. No. Ma perché fa questo rumore quando schiacci? Sarà il tipo di microfono. Vabbè. Vieni qua. Ciao anche a Luca. Come sta uscendo? Come sta arrivando? Una bomba, cacchio, fortissimo di radio, vabbè qua è un po' più generoso con l'altro grande, là, qua sei 9.50 con questo apparato. Vabbè, no, stavo arrivando lo Smitter, ma non arriva più di quello, del Galaxy. Va bene, sì, arrivate bene tutte e due, dai, tu un pochino più forte, Luca, un pochino più basso, ma comunque arrivate bene. La radio va bene, come livello? Anche troppo forte, come ti ha detto Luca, già va bene. Come ti sto arrivando il segnale, Luca? 9.5, scillante a 9.10. Kappa, già va bene, dai, potenza della radio, 10 watt, va bene, dai, rimango in quel Rix, ci sentiamo dopo, Kappa. Ehi, ciao Claudio. Arrivata a te, Robert. Aspetta, guarda. Ma sulla domanda, i baraccoli tu li compri vuoti o li stai riciclando? No, li compro. Li compro, capito? Li vendono già pronti. Non so, io li pronto, no, io li uso, nel senso per il lavoro mio, li uso, ma qualcuno magari recupera i baraccoli. Vabbè, se li puoi recuperare, tu vabbè li puoi recuperare. No, io le pago, capito? No, dove le prende? Ma qua a Sassari? No, fuori, tramite eBay, Continente. Quanto le paghi? 10 euro, compresa spedizione, 4 baratto. 10 euro, ma non so se è buono il prezzo. Dai, basta un baratto, come ho 250 grammi? Sì, io. Guarda, quando le riprende, ma a me, a un po' se li paghiamo di meno. Ce l'hanno da 250, anzi da 100, 250, 500, chilo e poi anche più grosso, vabbè. Oltre il chilo non te ne fai niente. Ma il problema non è il prezzo del barattolo che è un euro, è la spedizione. Appunto, ma se te ne danno 50 centesimi non è meglio, poi te li bigli. Quello sì. Già mi informo io, dai, non ti preoccupare. Ok. Però la radio va bene, sta uscendo bene. Sì, mi ti mando anche la foto di questo microfono che sto usando adesso. L'ho visto. È bellino, no? Allora, guarda, aspetta. Ce l'ho a due, perché se aumento mi ha detto così, a metà esce troppo forte. No, io ti sto ascoltando benissimo. Guarda, fammi un confronto adesso cambio la radio e mi dici che differenza noti tra questa radio con lo stesso microfono con quest'altra che ti faccio sentire. Questa è l'altra, la solita mia, come sta andando? Questa è tipo un po' barattolosa, l'altra rimane con più bassi. Addirittura, cioè questa è 44. No, è più forte l'altra. Meglio l'altra secondo me. Dici, invece cacca, pensavo che andasse meglio questa. Sembra che hai il processore staccato. Il processore staccato? No, tutti e due il processore staccato. Solo che il microfono è molto basso qua. Per quello. Quella là è molto più forte. Oh, il microfono qua ce l'ho a meno di uno. Aspetta, adesso ho sollevato un peluzzino. Guarda un po'. Resta non assomigliate all'altro. Ci sente la uguale, dai. L'altra varia un po' più alto il microfono, dai. E magari era per quello, adesso si assomigliano parecchio. Sì, vabbè. Ma con cosa stai ascoltando tu? Con la tua parte esterna o con quello di linea? No, quello della radio. Quello piccolo è un pochettino là ti inganna, perché è meglio sempre ascoltare con i microfoni, con le altopalanti esterne. E il segnale è questo, com'è lui? Quasi 9,20. L'altro quanto era? Beh, preciso. Riprova. Questo sei quasi 9,20. L'altro, aspetta, facciamo la prova con l'altro, così vediamo, perché la stessa antenna e potenza penso siano uguali. Aspetta un attimino. Questa è l'altra, lui. Vai. 1, 2, 3, prova radio. Il segnale dovrebbe essere uguale, credo che non cambi niente. No, un pelino più basso a questa. Però l'intensità microfonica è più forte. Sì. Però quando mi hanno dato l'aria è una bomba, infatti mi hanno fatto tutti i complimenti, mi hanno detto con cosa stavo uscendo. C'era un altro stesso con 430, stavo, si faceva sentire bene. Questo francese con 9009 e il microfono l'MB più 5 ci aveva. E un'antenna Sirio, tutti Sirio trattano, spagnoli, francesi, tutti con la Sirio 5 e usciva bene. Questo 9009 cos'è? Superstar. Ci sei ancora lui? Sì, ho detto. Aspetta che cambio il microfono. Ah, c'è gente vicino, sento. O sono una buona propagazione. Attenzione qua, canale 10, chi vuole entrare avanti. Ora? Allora, questo è il Super Silic. Questo è un come si chiama? Chiusa, forte, più forte dell'altra, però rimane un po' chiusa rispetto all'altra. Chiusa? In che senso? Questa è una voce come quando c'è la mano davanti, ti tagliamo pure gli acuti lui. Magari è il tipo di microfono. Bella, già bella, peccato che gli mancano quegli acuti, però mi sembra un po' più alta dell'altra, dovreste abbassarla un peluzzino. A metà. Questo è a metà il microfono, neanche sotto la M la radio. Però per adesso ho messo un filtro nella tua parlante. Guarda un po', com'è 1, 2, 3, posso abbassare, staccare, fare. No, diciamo, l'altra è più caratteristica, nel senso più naturale, questa è più da combattimento, buona anche questa, però peccato che mancano gli acuti. Se avessi una possibilità di mettere gli acuti, tu non c'avevi quell'apparecchietto che stavi vendendo, che faceva l'equalizzatore, ho venduto tra l'altro. Venduto l'avevo, sì, non ce l'ho più. Ma adesso mi sta arrivando un altro microfono, vediamo un po' com'è che c'è con quello lì. Ma il 60 non ce l'hai tu? Avevo venduto Antonio, non ce l'ho più. Intanto mi dicevate che non andava bene per la mia voce, questo 2020 lo stesso l'ho venduto perché mi dicevate che non andava bene, bumbarabà. Non lo so, non me lo ricordo di averti detto qualcosa del genere. Cosa ho Giulio ci aveva messo, credo, un MBQ4 adattato, ti posso dire, era molto naturale come. Dimmi una cosa, ma i picchi sono positivi? Sì. Mi hai già sentito con il MBQ4, mi ha detto che è molto meglio questo. Non lo so, non me lo ricordo, perché qua voi cambiate spesso le radio, le cose, e a memorizzare tutte le modulazioni viene male. Io sono di quelli che una volta che ho trovato l'abbinamento non tocco nulla. E posso cambiare l'altro microfono ad Unis per fare delle prove comparative, però quando trovo l'abbinamento con le radio, vabbè, adesso se vuoi ti faccio sentire un altro baracchino. Un secondino lì. Questa radio ti piace, Luca? Dimmi un po'. No, mamma mia. Troppo forte, questa è una 48. Però è molto tipo imbuto lì. Dopo? Tipo imbuto. Maratolosa, dici? Qua posso mettere anche un altro microfono. Guarda questo microfono che ti metto adesso e dimmi cosa cambi. Brava. Questa come va invece? No. Piccata, ma come ieri c'era Antonio, mi ha detto troppo bella con la radio, adesso la 48 sta uscendo la grande, invece è una cagata. Ma non mi piace. Non mi piace proprio. Qui c'è Natalino, guarda un po' come ti sente lui. Il segnale com'è lui? Dammi un rapporto di segnale con questa radio. 9, quasi 9:10. Vabbè, non c'è confronto con l'altra che stavo utilizzando, però non è chiara, mi dici. Ok, è chiara, però non mi piace, troppo acutia. Con questo invece ti ascolto molto meglio rispetto ad ascoltarti con l'altoparlante esterno. Ti dà più acuti qua, la radio tua è bellissima con questo altoparlante, utilizzando l'altoparlante suo, perché ti taglia un po' i bassi qua, va benissimo. Luca, guarda se il segnale è salito. 9:05. Sempre 9:05. Sì, neanche al 9:10 arrivi. Cioè 9:05 è così non ti arrivo a Santiago 2. Così sei quasi 9. Adesso, non aumenta nulla. E da te, Robert? Ma è passaggio senza parlare, attaccando. Guarda, così è tutta la potenza della radio e così è bassa potenza della radio. È impossibile che non aumenti. Da me da 9:25 passi quasi a 9:35, già aumenta a parecchio, grazie. E come mai da Luca non aumenta allora? Quasi, da quasi 9 a 9 a quasi 9:10. Ah, allora già va bene, dai. C'è la differenza, sì. Avevo capito che non ce n'era. Questo è Saturn Echo qua. Sì, Saturn Echo. Che segnale ti arrivo io di lì con questa radio? Mezzogiorno, stavo cercando di tararla, anche di quella non va, 9:10 sì, vabbè, ma arrivi 9:30 col K. Ehi, allora, no, tu già stai arrivando a bomba, la radio è fortissima, bulldruppo. Tra più 3, vabbè, ma sono veramente al minimo, perché io faccio delle righe alla TV, è troppo bassa l'antenna, devo tirarla su, ma non aggiungiamo, c'è la biglia in culo. No, non ti preoccupare, la mettiamo su, quando hai tempo, come lo dici, e ce la facciamo. Infatti bisogna metterla bene, se no non voglio rompere le palle, questi poi con la televisione si disturba, mi rompono le palle. E poi succede anche quando che non c'entri niente, ti cercano altre mani il giorno per dire c'è un problema, dice quello di non va attaccare, meglio farle bene le cose e sei tranquillo. Oggi non c'è nessuno che mi rompa le palle, sono i miei che capito. Già lo so, però cazzo, cioè c'è la possibilità di sollevarla e di discutere giù forte. Sì, che la solleviamo, già la mettiamo bene. Vabbè, dai, ti mando il cuore, ciao Luca, ciao Roberto, frappè, ciao. Ti ha parlato sopra Luca. Cosa? No, ho parlato sopra di Luca quando stavo dicendo vai Luca, lui stava parlando. Ciao a tutti e due, ci sentiamo. Vabbè dai, già ci vediamo noi spesso, dai, non c'è problema. Ok Luca, a te. Propagazione. Ehi, tu stai arrivando quasi 9:30 Luca, ma stai spingendo un bel. 10 l'importante. Da 9:25 arrivi quasi a 9:30. Sono 10 quarti, roba. Aspetta. Metti al minimo, proprio il minimo che puoi fare. Minimo. Te lo metto a... Uno, ti basta? Allora, superi 9:15 quando sei a minima potenza e quando parli superi 9:20. Buonasera. Perché mi modulazione. Qui sono 4. Allora, buonasera. No, oh, spinge parecchio, arrivi 9.25 con il pipe modulato. Aspetta che c'è qualcuno che chiama. Avanti, chi ha detto buonasera, avanti. Allora, desde Spagna, buonasera. In Spagna. Sì, adelante Spagna, qua operator Roberto, QSL. Sì, ok, Luisa, ti rilancio un amico qua, Luca, vai Luca per... Prima camera prima, non mi sentono sicuramente, sono negativo per quella zona. Buona propagazione, oggi sto parlando con una presidente. E vuoi puoi ripetere il tuo nome, mio hermano? Luigi mi pare. E il tuo nome, per favore? Purtroppo mucho propagazione di surbo, segnalito tu essere mucho mucho forte, 9 più 10 radio 5, però sovramodulazione, puoi ripetere più lentamente per favore? C'è qualcuno in FM. Le tue condizioni di trasmissione per favore? Gente FM vicino, dai. Purtroppo mi dispiace compagno, mucho mucho disturbo, sovramodulazione. Non è problema amico, non è problema. President Taylor, la emissora è una President Taylor e l'antenna è una Solarcom A99. President Taylor con una Solarcom. No, arriva forte 9 più 10, però come sta parlando poi ci si parlano sopra gli altri, perché la radio è forte, è chiara, però quando sta parlando ci parlano gli altri sopra. Comunque ti saluto 7351 compagno, è stato un piacere ascoltarti. Ciao ciao, bye bye from Italy. Grazie amico, puoi sentirmi su questa sera. Cosa Luca? Prego, prego. Roberto, QSL. La mia città è Sassari, nord della Sardegna, isola della Sardegna. Aspetta che ho sentito uno spagnolo dalla parte bassa del centro storico. Avanti lo spagnolo del centro storico. Hola hombre, che passa tio? Ciao, no, già, avete sentito, c'è anche Luca. Avanti Luca. Luca sta attaccando il coso, la stufa da 3 kg. Io tengo perché è una grossa. Questo qui mi sembra del coso del Sudafrica, un bel forte sta arrivando. Ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao. Che non si comprende nulla. Lo schiaccio a Antonello Gianni. Ehi, già mal di testa, sono appena entrato da un minuto e sono già mal di capo. Ciao Ale, buonasera. Ho sentito anche di Sgrimbisci, anche Natalino, buonasera a tutti. Ehi, ciao, c'era anche Luca, avanti Flipper. Io non ho capito se propagazione o c'è qualcuno che sta parlando in mano laterale. C'è uno in mano laterale, adesso ecco ce ne ho, ecco ce ne ho, secco. Ce l'hai ancora, un farò off. Io non mi ascolto. Ma è basso, però va bene. No, si sente, un bel ripetizione c'è. Aspetta. Guarda adesso, 1, 2, 3. Forse stai spingendo troppo, però Antonio, tu. Ma perché? Esatto, lo so. E io. Adesso vai molto meglio, ok, c'è qualche donna dove vuole entrare, avanti chi vuole entrare, è arrivato un segnale forte qua, Luca tu sì, è arrivato un 9 più 30 qua, vai di nuovo Gianni. A proposito di Luca, mi sarebbe piaciuto chiedergli qualche informazione su quelle cose che altro costruisce lui, se all'ascolto, Lu, appena poi se mi puoi dare risposta. Avanti Robè. No, forse sta cambiando la radio perché stava provando un baracchino, c'è un microfono e aspetta che ne provo un altro, probabilmente si è allontanato. Antonio adesso va bene, poco fa hai ridotto quanto un saturo e quell'eco troppo ripetitivo, prima di chiudere la parola stava 20 volte ripetendo. Sì, adesso va bene comunque, no? Ho usato il coso, la tecnica. 40, già lo sai, il Pullman, quello monogatto che c'ha la guardia natalino. Cos'è questo? Ma già sei vicino, c'ha la televisione? No, no. E Simona che sta parlando in camera da letto. E al telefono. Ah, ho capito, se c'è qualcuno che vuole mettere avanti, chi chiama? Riprendi tu già. Ehi, è un amuroto in questa propagazione, pacca di dai. Ui, mamma mia. Ti imbriacheggia. Sente di poco di suoni strani. Sì, poco fa con questo qua ci siamo dovuti spostare di 5, perché di 5 kHz, perché non si è comprendita nulla. Parlava bene l'italiano, vicino a Ravignone era, c'è una centrale nucleare, mi ha detto sono a 10 km, ho detto complimenti, non ti manca la corrente, l'ha detto. Di origine italiana, anche se lui è cittadino francese, però forse qualche parente aveva in Italia. E dice conosceva questa qua di Sassari, mi ha detto il nome, ho detto non credo di conoscerla. Beh, se a 10 km da una centrale nucleare non ha bisogno di corrente, si illumina da solo. E già abbiamo giudito, detto, non è problema di corrente, però parlava bene l'italiano, si sentiva che non era italiano, però parlava benissimo, nel senso riusciva a capire quello che diceva. Poi c'era quest'altro di Guadalajara, tu ricordi Guadalajara? Io pensavo che fosse in coso, in Brasile, non era Guadalajara, non c'era Messico 70, non in Brasile, in Messico 70, non c'era Guadalajara che aveva giocato l'Italia. Ah boh, non ricordo e quindi non posso confermare. Non sapevo che esistesse anche in Spagna, Guadalajara, e io pensavo solo in Messico, quando c'era Italia-Brasile, a Guadalajara c'è il coso, la partita Italia-Brasile, o Italia-Germania, no, forse era Italia-Germania 4-3. Ok, vediamo se è rientrato Luca, se no riprendi tu Antonello, avanti Luca. Scatta Luca, come ti ha detto Luca, entra e poi fuggine, toccata e fuga. C'era anche Claudio, vediamo se tu ascolti a Claudio. Claudio ci sei, così ti dà un controllo anche a te Gianni il profeta. Il predicatore. No, ci siamo sentiti ieri avanti ieri. E arriva come al solito, dai. Già si fa sentire, è certo che c'è l'antenna piccolina, l'antenna non è piccola, è bassa, e non ha diciamo il rendimento che dovrebbe avere, però già si fa già fuccia bello forte qua. Bene Meda. Io volevo parlare con Luca, adesso è sparito, boh. Telefono, non c'è il numero. Negativo, no, volevo avere qualche informazione sui kit che prepara lui, quelli che autocostruisce per la canna da pesca. Volevo sapere, insomma, dei dettagli, però se non si fa sentire. Avanti, Robert. Ehi, Abu, probabilmente sta facendo qualcosa. No, adesso sta facendo anche carichi fittizi. Ho visto, il prezzo è molto conveniente. Infatti, quando ho visto il prezzo, ho detto, per quella roba lì va più che bene, considerando che ci vuole un po' di lavoro per farlo. Oh, yeah. Bella Dio, ragazzi, per carità, cazzo. Dalla giornata qua, praticamente estiva, cazzo, a un autunnale, bobo. Sì, vabbè, l'ha previsto oggi, comunque già migliora domani, non c'è problema, dai. Saltano anche un pochettino le temperature, non c'è freddo, però il rompimento di scatole leva, considerando che siamo all'11 di maggio. A che ora eravamo stati di fare il bagno, ante Covid. Ehia. Vediamo se c'è Alessio. Alessio, sì, anche lui si è spostato. Bobo. Io che entra nel fulmine, cos'è? Attimini, qua c'è il Covid via etere. Cazzo che fosse spostato, adesso già lo sappiamo. Che fosse? Spostato. Non ho capito che fosse spostato. Sì, ha detto che si è spostato, adesso Gianni. Già lo sappiamo che è spostato. Ah, non ho capito, scusa. Sempre la testa radio c'è qua. Ehi, solo questa ciò, e senti, il gas si sta tornando con lontane più tre, buh. Ma ti rendi conto, cacchio, ha riempito Gianni, ha riempito tutto il Sassari di radio, di baracchini, va, e scende con un Saturnecco, Medavini che ha fatto. Se voi ti preso un ala 48, cosa vuoi? Un ala 34, e se voi te ne do un armadio di radio, ma non me l'ha fatti nuda, quindi va bene questa che è 220. Sto scherzando naturalmente, e lo dico, già arriverà la radio bella, dai, prima o poi. Sì, in riparazione, quando me la vuole mandare, se si ricorda. KK, beh Gianni, a mia copi. Ti accoppo. Segnale good, radio very good. Ok, come al solito, no problem. Ehi, vabbè, sono in condizioni precarie ancora. Tutto a sistemare, ma quest'estate. Oh, Ioia, vabbè, diciamo che io sono il più piccolino, eh. Però va va bene così, dai, piccolo è bello. L'importante è arrivare, poi. Aspetta, c'è qualcuno che forse vuole entrare. Avanti, che vuole entrare. Che è? Non sta uscendo di radio, chi sei? Ma non è Natalino, che cosa, Gianni? 9.15 qua sta arrivando, però non è uscito di radio. Ho detto, il più piccolo sono io. E tu, non stai uscendo di radio, Natalino? Forse era troppo basso il microfono. Adesso stai uscendo, stai anche quasi arrivando a 9.20. Piano piano, se pedali un po' di più ci riesci, dai. Vuoi che pedalo? E allora pedaliamo. Bene, va così. Adesso hai messo le marce alte, stai andando bene, poi sui 9.30, 9.25 sei arrivato. Ok, siete tutti esagerati, tutti la maniera della butta, l'unico piccolino che c'è sempre piano piano dopo io, e boom. Non è vero, io esco sempre così. Cos'è, televisione accesa, ti stai portando un po' di rumori esterni. Il televisore acceso, ce l'hai, mi ascolto, se no senti anche il televisore. Avanti a te di nuovo Gianni. Sveglia. Oioia. Prima sono tutti grandi, poi vogliono essere tutti piccoli, boh, non se ne comprendi nulla. Oioioi, Natalino, Natalino. Anzio, tu con la 5 ottavi e io con un quarto d'onda. Vediamo chi è più piccolo. Sempre io, perché io sto uscendo con 4 quarto monogatti. Ma perché ti sono già preso questa roba, Natalino? Non parlare, se non vuole parlare. E vabbè, quindi mi d'accordo. Ciao, ciao, mi ascolto. Ma c'è qualche ricevitore acceso vicino? Si sente propaganda nel sotto? Oh, io ho solo questa radio, non faccio altro. Sì, c'è, ci sono gli spagnoli sotto, sicuramente ce li portiamo appresso. Non tu, Natalino ce la portando appresso gli spagnoli. Vediamo se il flipper funziona ancora, ha fatto tilt. Flipper in banda, ok, ci avevi già fatto a flipper, penso di sì, Gianni. Non ho capito, dimmi. Ho detto, il flipper ha fatto tilt, per cui se hai giocato a flipper sai cosa significa. Positivo, positivo. Capitina, una volta che lo secco io sparisce, Pure il flipper mi è sempre piaciuto, quelli vecchi, ti ricordi quelli vecchi col totalizzatore meccanico, quando faceva il bonus. Poi sono arrivati quelli elettronici, ho finito tutto, non mi sono piaciuti. L'unico gioco di bar, a parte vabbè il biliardino, era il flipper, gli altri tutti i videogiochi, quelle cose a me non mi sono mai piaciuti, mai attirato. Poca roba, dai, eccetto qualcosina. I classici, quello che della navicella che doveva distruggere i meteoriti, quello in bianco e nero. Ma non mi metto quanti si chiamava. Sì, a parte quelle due o tre cose, boh, finito. Cosa ti volevo dire? Eventualmente, se mi fa questa cortesia, Robè, gli dici, cioè, glielo mandi tu il messaggio, che ho necessità di contattarlo per, insomma, per farmi avere, cioè, per delle informazioni riguardo al kit del cavo per la canna pesca, solo la bobina col cavo e basta. Ok, arrivando un messaggio dopo, gli mando via WhatsApp. Non ti do il nome e il numero perché Mari non vuole, se no te l'avrei mandato a te per WhatsApp. Il Mari gli chiedo l'autorizzazione, se vuole ti do direttamente il suo numero. Credo che non ci siano problemi, però sempre bene chiedere prima di dare i numeri di qualche persona, almeno io sono abituato a far così. No, totalmente d'accordo con te, infatti anche io prima di dare qualsiasi recapito chiedo ulteriori conferme. No, mi trovi assolutamente d'accordo con questo. No, ma mi interessava sapere se li fa ancora, insomma, la bobina con i vari cablaggi per la 5 ottavi, e volevo sapere se fa anche la mezz'onda, cioè se oltre la 5 ottavi faceva anche la mezz'onda. Penso di sì, tanto basta accorciare e basta, cioè, perché vuoi mettere mezz'onda? 5 ottavi, la tua cos'è? 5 ottavi l'antenna che hai tu? Cazzo roba, io c'ho una boomerang che cazzo da 2,75 m, e Natalino dice che lui è più piccolo. Ma stai scherzando, perché stai arrivando a 9.20 tu, quando è più forte di Natalino arrivi, vabbè Natalino c'ha un'antenna bassa, cioè, c'ha un segnalone tu, io pensavo ci avessi una Game Master tu. Oh, io c'ho la boomerang della Lemmy, 2,75 m. Quella la boomerang grande, perché poi c'è la Lemmy, quella più piccola. 2,75 m. No, complimenti, allora sì, alla grande. Se ti metti l'antenna allora cosa fai? Male è un intelligente tu, se stai arrivando 9.20 qua con quarantennina. E cosa vuoi ti dica? Guarda, la radio sta dando 4 watt, 4/5 di picco, l'ho rimessa praticamente come l'originale, ho rimesso in watt suoi. No, no, io pensavo ci avessi una Game Master, magari che ci avesse anche qualche watt in più in antenna, che il baracchino magari ne dava una decina, invece sta uscendo pulito. No, no, ho rimesso a posto i watt originali, ho messo a posto i watt originali già da più di un mese da questa parte. Guarda, modulati sono 4 a 4 e mezzo, non va oltre, figurati tu. No, no, stai andando alla grande, un po' di gente l'avrebbe voluto un segnale tuo, considerando che sei anche in un fosso rispetto a me, non sei per dire come quelli che sono per dire Cappuccini, Monte Alto e cose del genere, stai andando alla grande, io come ti arrivo di lì? Forte, forte. Vuoi segnare? Vabbè, lo Smithy del 3009, sai, è rinomato per essere un po' tirchio. Più o meno quanto arrivo? Sei sul più del 30 quasi, dai. Quindi già si fa sentire questa radio, dai. Sì, ti stavo dicendo, voglio mettere una mezz'onda, perché non basterebbe anche quella, piuttosto che mettere 7 virgola rotti metri di antenna, basta anche una mezz'onda, 5 metri e mezzo, 6 metri, boh, va bene così, una canna da pesca così va benissimo. Si è accorgata bene, io ce l'avevo giù a Platamona, però era un quarto d'onda, confrontata con la Gran Premio gli facevo 10-0, sia in trasmissione soprattutto che in ricezione, fatta una canna da pesca con i radialini in cavetto, da cos'era, 2 mm, mi sembra, 2 mm e mezzo, adesso non mi ricordo neanche da quanto, da 2 e mezzo, e ti posso dire, ero di lì sul mare proprio, senza che mi ascoltavano, e arrivavo quasi 9, considerando che uscivo con un baracchinetto, quelli dalla zona alta del monte arrivavo 9, gli altri magari 7-8, però ti sentivano, e prima invece mi tiravano fuori con le pinze, molti non mi ascoltavano con la Grand Prix, mini Grand Prix parliamo, la piccolina piccolina. Come ho messo con l'antenna lampada lì senza avere niente, un palo lì a Dovuzzi con delle fascette, la canna da pesca e i fili buttati sul tetto della casetta, di quelle casette piccoline di lì a Platamona, ti posso dire che mi ascoltavano, poi l'ho tenuta poco, non me ne fottiva nulla, perché quando sei al mare non andiamo a mare, non andiamo a far coso. Ok, vediamo se è rientrato Flipper o se è rientrato Antonello. Prima Flipper, lo rifacciamo la chiamata, se non risponde lui chiamiamo Antonello. Avanti Luca, nulla. Antonello ci sei? Nulla. Vediamo se c'è qualche donato che vuole entrare. Io attacco l'FM500S che ho comprato 2BP4 ieri sera da Fusaro, così lo provo, 2 minuti stacco questo, attacco l'altro. Antonello quanto ti arriva rispetto a me, che lui è più in alto, lui è Gianni. Ero distratto, Robert. Ah vabbè, dopo lo proviamo. Così facciamo i confronti, vediamo un pochettino come sono distribuiti i segnali. E mi devo dare un, vabbè, non adesso, quando lo sento, ad Angelino, quello di Alghero, c'aveva un programma lui, che in base alle tue caratteristiche di potenza, antenna, altezza, latitudine, eccetera, eccetera, ti dava il grafico di radiazione della tua stazione. Ma è interessante, un bel programma, quelli che usano i professionisti, diciamo, le stazioni broadcasting, quando devono mettere delle antenne per vedere il bacino di ascolto di utenza, si mettono le antenne e le irradiano per vedere se dove arriva, e ti fanno i grafici di radiazione, ti fanno su 360 gradi, avrei voluto vedere dove c'ho il punto migliore di radiazione. Stai parlando di un software, un programma? Sì, sì, è un software, e tu gli dai le tue coordinate, gli dici c'ho un'antenna di 3,50 m, un guadagno di 0,75 dB, indicata, montata alla latitudine, eccetera, eccetera, dove sei tu a casa, eccetera, eccetera, lui ti dà con tale potenza, ti dice sì, da dove arrivi, naturalmente sono delle cose teoriche fatte col computer, c'è un software, però è interessante perché queste cose le usano i professionisti quando devono mettere un punto ripetitore, per vedere la direzione dove devono aumentare o dove devono diminuire perché l'aria è troppo forte, quando c'hanno i pannelli di radiazione, soprattutto quando sono pannelli televisivi e cose del genere, in certe zone dice qua non c'è nessuno, non te la futti nuda, pompiamo più in quell'altra direzione, siccome questa è un'antenna omnidirezionale, per cui il guadagno in linea di massima teorica dovrebbe essere circolare, però magari c'è un palazzo che ti dà fastidio, una collina, cosa del genere, questo ti dice, ti dà i grafici tridimensionali, ti dice a colori, parte per dire dal rosso pieno fino ad arrivare al giallo, dove si attenua il segnale. Vada poi Don Becco, mi sto scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. io ti ascolto alle 9.50 alla radio 5, vediamo come ti ha ascoltato cosa, come si chiama Gianni, così ti do anche un controllo di segnale. Avanti Gianni, vai avanti a lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', dove sto scendo, sto usando dal BB+4 dell'FM500S. Va bene, la radio va bene a lei, il segnale è appena più basso di quello di Roberto, fai che sia 9.20, 9.25, Roberto ce l'ho invece sul laghetto, si ferma sul più del 30, dai. Ho capito, aspetta, voglio fare la prova, guarda Palozzo, sviluppa. Com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, saltano Chiara. Allora, il segnale è cambiato ed è quasi identico a quello di Roberto, però cazzo la radio è veramente satura. Ha cambiato veramente il suono, chiaramente se ne mangia un po', era meglio prima, Ari. Ho capito, quindi compensa la vecchia, perché altro. Va bene, aspetta che l'ho distacco. Ecco fatto, adesso è distaccato, adesso liscio. A dove è meglio l'altro microfono, però ti dico. Vabbè, adesso ti faccio vedere, ma giusto perché no, non ti voglio dire cazzate. Allora, se il telefono. Aspetta, se il telefono mette a fuoco ti faccio vedere. Cazzo. E lui? No. Cazzo, è un travaglio. La foto viene sfocata, no? Adesso ti faccio vedere con quanti watt sto uscendo. No, ci credo, non voglio dubitare. Allora stavo dicendo, uscivi meglio con l'altro microfono, qua è un po' più basso, poi come è attaccato lo saturavi. E che cos'era l'altro microfono che avevi prima? Registrato break. Beh, l'altro microfono che avevo prima era il DM1000 attaccato al monogatto, a quello, come si chiama, al Thelmar ZX40. Invece questo è l'FM500S con il microfono MB+4. È un po' cupo, lo sento Antone. Avanti Brecco, avanti. Attento Brecco, avanti. Aspetti, gira. Se chiede Brecco poi non fa, non rientra. Ok, di nuovo Gianni a te il mic. È la Spagna che ti sta chiamando. Adelante Spagna, se scucci l'Italia che chiama. Sì, buonasera compagno, qua operatore Roberto, Nord Sardegna, isola della Sardegna, QSL. Questo sta spingendo un bel potente, arriva a 9, però è un bel satura la radio. Come mi scucci il compagno? Ok, il tuo segnalito è 7-9 e la radio del 5, un po' complessa, leggermente complessa. Ti rilancio il compagno, l'amico, hermano Gianni, adelante Gianni. Ora compagno, non ricordo la tua località, operatore Gianni, Nord Sardegna, Sassari, ti ho segnalito il Santiago del 5, radio 4, QSL. Che qualcuno sta facendo il furbetto. Cazzo diavolo. Lui è meglio mandato gli diamenti. C'è qualcuno sta disturbando il mando laterale, non so se lo sentite, avanti già. Eia, sì, lo sento anch'io, aspetta che sto cercando. Cazzo, vabbè che non ci caffuso, è vecchio sul telefono. Quando ti arriva a te già quel segnale? Ero intento a guardare il telefono per fare la foto, quindi non te lo posso dire, Robè. Perché quando stai parlando tu ti stai abbassando, a me arriva quasi 9.30, 9.25. Ciao Marco, ben sentito. Saluto. Cos'è detto? Saluto. Marco, è un po' che non ti sentivo. Sì, sto facendo molto ascolto anche in HF. Un saluto a tutti, resto in QRX, ciao. Eia, ciao Marco, ben sentito. Vai Antonio. Eia, ciao Marco, salutoni, ben sentito. Buon ascolto, buon ascolto. Però quando è così la propagazione non è piacevole, perché si sovrappongono uno sopra l'altro. Ci siamo voluti spostare con uno dalla Francia, Avignone, l'ho detto prima, perché non se ne comprendeva nulla, ogni volta che parlava ci metteva l'altro, allora ho detto spostati appena e ci siamo fatti una chiacchieratina. Eia, capisco, aspetta, vediamo un po', partite il video, perché con la foto non riesco a fare la messa a fuoco, ci mette sto facendo una piccola clip così te la mando e ti rendi conto che non ti sto dicendo stupidaggini. E niente, vabbè, cosa volevo dire, rinnovo l'invito, se riesci a mandare un messaggio a Luca, niente, ok. Sì, aspetta che glielo mando adesso, così gli dico se ti posso dare il numero. Ciu. Cucciù, allora è confondibile quella parola. Allora, se fa ancora la riservava, cazzo, c'è una passata di fulmini dalla parte di Olbia che non aveva idea, cazzo. Sta caricando a fronte lì, sta caricando, ho visto cosa adesso, il meteo. Cazzo, Olbia proprio di lusso lo sto facendo, cazzo, una bella passata, cazzo. Meno male qua niente, se no guai. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Gianni. Mi sono dimenticato di salutare a Marco. Salute Trigo, signor Condor, buonasera. Buon ascolto, se vuoi fare capolino, siamo qua, dai, ok. Avanti Robè. Ehi, adesso tutti ascoltoni stanno diventando, come diceva uno, a recce di bocco. Dico un po', ma cosa? Quell'altro di cosa? Quello muro su, Claudio di muro su, più sentito la vetta? Personalmente no. Negativo. Già sto entrando poco, sì, vabbè, ogni tanto accendo la rete, ascolto. Però non ho più sentito. Ehi, ogni tanto senti qualcuno, poi sta un mezzo che non si fa sentire. L'altro giorno, quando è? Ieri notte mi sembra, o ieri notte, no, ieri notte che c'era un po' di confusione, che poi alla fine ha chiuso, che c'era il portantista, eravamo con Antonio, poi c'era entrato un secondino Claudio, c'era Eugenio, era parecchio che non l'ho sentito. Prego. Che avanti. Ciao Roberto, ciao Ikebu. Non lo so, salutoni in circolare comunque. Un controllo, lo vedi radio Roberto? Sì, sei. Allora, il segnale è quasi 20, la radio è 5, però c'è un leggerissimo disturbo sotto, riprova, senza parlare, manda portante. Ok. Prova. Adesso va bene, prima c'avevi una specie di innesco sotto, prova a parlare un po'. Ok, 1, 2, 3, provo di modulazione. Come radio può andare, sì? Sì, sì, buona radio, un pochettino presso i pignoli, leggermente nasina, ma è 5 pulita chiara, niente da dire. Ecco, adesso sono più diretto, diciamo, verso il microfono da tavolo. Così è migliore o è come prima, più o meno? No, ti ascolto bene, pulita, Tony, niente da dire. Ma in realtà ne scavo però, Va bene così, dai. Ok, rimango all'ascolto perché sono in una posizione che non posso stare così. Ho ancora dolore della ferita, quindi devo starmi un pochettino in orizzontale. Dai, ti ascolto, buon proseguo, avanti da me. Ehi, ciao Tony, dai, è buon tutto. Auguri per l'operazione, ho saputo aver fatto l'operazione. Ehi, cappa. Niente, già 21 giorni così, c'ho solo dolori, me l'ho fatto bene. Attenzione binario 10K. buonasera. No, sto provando un amplificatore, non mi ascolti. Fatta di varia. Va bene? Va benissimo, fra. Segnale va forte o basso? Come? Fortissimo, molto forte. Cappa di positivo, va bene, dai. Aspetta un secondo, che voglio provare una cordatura. Ok. Dicevo, vedi? Guarda adesso, sceso, Un pochino, ma non assai. No, perché questi sono i batti della, di questa radio che sto utilizzando adesso. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Guarda, con l'attacco già si sente già. È una bestia. Veglia, però satura un po'. Saturazione, no. Aspetta, lo scendiamo di... Così dovrebbe andare bene. Così va bene. Adesso dire. Ok, no, sto utilizzando il camera più 3. Una bomba, Bene qua. Sì, sì, va benissimo. K. E gli ho dovuto cambiare il filo perché c'era il filo interrotto. Adesso lo stavo provando appunto come stava andando. Va benissimo, va. E avaro usarlo. E lo dà su sì. K. L'amplificatore chi è? Quello che mi hai fatto vedere? K, questo è un 500, dai, 500 watt, 220, 4 valvole. E ce l'ho al minimo, dai, non posso dare molta potenza se è disturbo. Dai, Franco. E che, buonasera. Tutta frusce, sì, Sto qua. Franco! Che sta spacciando tutto qua. E allora, buonasera, già non so chi è. Che Antrudio. Buonasera. Com'è la radio? Troppecco c'è, troppecco, non si capisce nulla. E adesso bene va? Adesso va bene. Io sto utilizzando un Turner più 3 adesso. Ultima radio. Io sto usando il Turner Super Sideric. Quindi va bene questo Turner. Cappa. E gli ho cambiato il filo, Tony, perché c'era il filo interrotto, capito? Gli ho cambiato tutto il filo nuovo. E io dovrei cambiarlo qua, perché dove c'è lo spinotto, già qua c'è la curva. No, no, io ho rifatto tutto da capo. Ti dirò di più, che praticamente c'era il rosso e il nero interrotto, capito? Quindi a volte andava, a volte non andava. Come l'ho toccato mi è rimasto in mano, tutto nuovo il filo, adesso va benissimo, ce l'ho al minimo di radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. Sì, è bomba, è forte. Ah, te la vanno calmata. Andare, anda. Cappa, cappa. Anche questo c'è amplifica, dai. Sì, ha voglia. È un bel sensibile, E io me lo devo comprare comunque il capo. Dove lo metto? Da Fusaro? Cappa. Cosa costa? 10 euro. Mi pare 6 euro qualcosa. Una cazzata. Oh, com'è se ce la faccio? Me lo compro perché devo cambiare anche questo. Non mi piace, ha la curva lo spinotto, cavolo. Chi me l'ha dato ha provato un sacco di roba da provarlo, tagliare, fare. Adesso devo mettere nuovo e buonanotte. In definitiva cominci a tagliare, adesso taglio dopo, poi si accorcia troppo, capito? Perché la gente è ignorante, non è che poi disaldava i fili e poi lo rifaceva, no. Però fai presa, tagliava, poi ritagliava buonanotte. E poi rimane senza avvio. Vai, a tu. Cavolo. Allora fare la sua misura, se no poi non va più bene. Allora, la gente fa quello che vuole fare. Tutto il cavo lungo, bello, mai stato tagliato. Ma così vuole, dai. Non aggiù mai educato, mi l'ha fatti, perché magari negli anni con l'usura si è guastato. Quello del 550 ho messo solo la pompa e basta. Gli altri non ho mai avuto problemi. Poco fa stavo parlando con Gianni. Ah, il cane che poverino già penso che lo sai che si sente male. Oh, ma non lo so, è il sangue da pisello, è stato antibiotici e coso. Ma dice che infatti che non ci era dato con me. Dall'argento infatti io non ho permesso di misurare, deve fare delle iniezioni all'interno del pisello, capito? Mica è che sta poverità. E lo capisco perché a me ripeto, ai cani qualche uno fa lo saluto a rovescio, si chiama così, io non lo sapevo. Le tappine dei buchi del naso e li faccio subito, date verso internet, guardate, è uguale identico, o faccio così e poi subito li passa, ma quando non lo sai ti preoccupi, ti spaventi. Vabbè, quando è così sì, cosa ci vuoi fare? Vabbè Tony, dai, io vi lascio, che chiudo questo microfono, c'era tutto aperto, stavo giusto provando. Ciao Antonio, ciao Tonino, dai, ce la riascolta alle prossime, buonanotte, io me ne passo in QRT. Finisco di chiuderlo, sono un casino, Tony. Ciao, d'accordo, ok, dai, ci sentiamo. Stammi bene, buon QRT, saluta mia regia, alle prossime, ciao ciao. Capa. Ciao Francia, sentiamo al prossimo. Quello del microfono, E lo devo chiudere perché ce l'ho tutto aperto, Antu, se no casino, perdo viti, perdo tutto, dai. Adesso lo sto modulando praticamente col microfono aperto, lo stavo giusto provando. Ok, dai, grazie del rapporto. Ciao Tonino, buonanotte, ciao anche Antu, buonanotte, saluto al cuore anche da parte mia. Tutto contraccambiato al 100%. Saluto anche a quelli che sono in ascolto. Per me QRT, ciao. Ciao ciao di nuovo Franco, stai bene, batte tu. Ciao ciao Franco, ci sentiamo. Non ho capito cosa li si fa in quei casi al cane. Ma dice, io quando ho capito cosa per bocca, non so, invece sono roba di argento, cos'è, le siringhe a pisello. Allora dice che c'è una specie di cista dentro che quando si riempie il sangue esplode e esce il sangue dal pisello, poverino. E lui ha detto, ma bisogna operare, ha detto no, bisogna aprire tutta la pancia, poverino, il cane, no, no, no. Quindi fa questa cura già li passa. Se non vado errato non è la prima volta che gli succede. E anche l'altra volta è successo. Oh, poverino, che cosa sarà soffrendo già. Cane così, poverino, Purtroppo. Quando va bene, quando va male è un casino. Beh, io non volevo prendermi il cane, che ne ho preso due piccolini, sono andata piccolina, grazie a Dio sono sani. Però poi penso, e se un domani sono male, e sono male anch'io. E se un domani poi mi muore qualche uno, sono male anch'io. E sono belli, sì, quello che vuoi, però vai a pensare queste cose qua. Alla fine, ma che me l'ha fatto qua? Non so, è come le persone. Vanno bene, quando vanno male, poverini, è un casino. No, no, io no, non ne voglio perché cavolo è un casino. Poi c'è sempre, cioè ti devi sempre privare, ti devi sacrificare sempre per loro, devi dedicarglielo il tempo, non c'è nulla da fare. Purtroppo io non ho detto, non ho posto, poi meglio lasciar stare perché ho un casino. Io il posto ce l'ho, però ripeto, sono molto affezionato a loro, loro sono affezionati a me, sono da piccolini e mi fanno le feste. Io quando sono andato a operarmi, poi sono tornato dopo 10-12 giorni, le feste che mi hanno fatto, guarda tu. Mi manca solo una parola al cane, questo lo consiglio a voce alta. Sì, e poi ce l'ho sempre io, le cocco, le vizio, le faccio mangiare, preparo quello, le preparo quell'altro, insomma, fanno parte di me praticamente, non so, io ne avevo uno e me l'avevo ucciso qua, poverino, sotto la macchina, e fai un casino. Questo scappava sempre, vedeva gli altri cani fuori, anche io giù per tanto, allora ho preso due. Questi due piccolini ci fanno compagnia, sono due sorelle, piccolini, è un'altra piccola, sono già 14 mesi, ma ho visto che ci gioca i corti da una parte all'altra, no? Ma è bello, va bene così, eh. Mi auguro che rimangano sempre sani così, grazie a Dio. Poi, vediamo. È un bel casino, quando fanno male, mamma mia. Com'è la radio questa quanto? Buona. C'è la politica, sì. Sì, sì. Ma va bene. Aspetta che vedere se aumenta un po'. Aumentato, eh? Ci hanno simpatici. Così, com'è? È un bel forte, poca potenza, Sì, Santiago 7 adesso, può fare meglio. Sì, ma la radio è aumentata però. Un bel pure. Non capisco perché ha queste variazioni. Non lo so tu. Ecco, adesso è aumentato di nuovo. Infatti il baracchino, ma cosa ne so, Io mi sa che questo qua, l'autologo, lascio il microfono male, questo lo trasporto sul presidente, che là montava bene. Ah, ho capito. Comunque, non è il solo che lo fa, ce n'è anche un altro, ho sentito anche un altro, che va tutta la potenza e aumenta la radio di brutto. Ma cosa ne so, se me la succeva? E niente, poi sono altro americano di baracchino, però questo c'ho tutto in casino. Se quando non sto bene ho tutto il legname pronto per fare le mobile come si deve, o voglio fare il ripiano come si deve, questo c'ho solo un ripiano, voglio fare a tre ripiani. Lo speso di profondità, questo è 30, quello è 40, a voglia. È tutta un'altra cosa, qui c'è un barazzone, poi quello da due, qui c'è quasi da 3 centimetri, più grosso. E se quando lo sistemo tutto come si deve, tocca tenere così, non posso fare nulla. Purtroppo non ho ancora, diciamo, la possibilità di mettermi a costruire, vabbè, ricostruire, perché ripeto, mi fa male con la ferita. Ah, parecchio è guido. Ma lo sai che non è neanche, ho dovuto dire pure allora. Questo è un like, riesci a vedere? Like, Drake sarà. Oh Drake, boh. Ehi, è bello, c'hai gli smitri rotondi, che boh. No, non lo so. E funziona a 110 volt. Infatti ho fatto arrivare da fuori il trasformatore da 2 volt a 110. Ma lo sai che ce l'avevo pure io? Questo baracchino, la stazione fissa, eh? No, c'aveva un apparecchio lo stesso che andava a 110 volt. E il coso ce li ha quei cosili, come si chiama, per cambiare la potenza, c'è la GBC, ce li ha. Gliel'ho chiesto, non aveva più, poi lui le vende 45 euro. Sai quanto ho pagato sto qua? Una cazzata, 20 euro da fuori. E 9 euro il trasporto, 30 euro. Un barrado, 45 euro. Allora, siccome io mi serviva, ma stavo partendo per operarmi, ho chiesto il favore a Franco, e Franco mi ha fatto il favore, l'ha fatto arrivare a casa sua, l'ha dato i soldi, quando sono tornato poi mi ha dato il trasformatore che è arrivato. Ah, ho capito. Hai capito la CBC, Tonino, dopo l'occhio? Tutto caro, il puzzino se lo vedono, ragazzi. Se per un giorno il tuo pinghino lo gioca. Poi c'è un casino, in quelle voci non si comprende nulla. Mezzo binghinoso, E allora? Adesso la radio è anche migliore, giusto? No, va bene. Ok. Va bene, dai, devo ti incanto. Io ho visto che io meno ci vado con le voci, meglio è. Tanto, è tutto caro. Tutto un casino, non si comprende nulla, scatole su scatole. Guarda, quello che si arrangia di più a Sassari è quello, Fusaro, è molto più onesto, si arrangiano di più. Ed è anche il più ordinato come negozio. È già non credo, via. Allora. lui, e vabbè lui è solo un uomo, capito, là ci sono quelle donne, quindi, ma so casinicchio e Torino va a carezzare. Se ho preso tre spezzoni, 18 euro, la mazza gliene è varia, e tu cazzo, ma non sei più caro, e ma sono fatte professionalmente, ho detto guarda, non ti offendere, ma queste sono dotture e pelle, fa arrivato ragazzo in gane, tutte bucate, cazzo. Vero, mi ha detto, non sto scherzando, che schifo, se ho prima a comprare pelle da Fusaro e il capo ce l'ho io, me le faccio via le spezzoni, invece, vabbè, per avere subito la roba pronta. Quindi cosa avevo a fare un spezzone? Avevo nuda. Non avevo gana, ce l'ho il saldatore professionale, ne ho tre saldatori a voglia, ma, vabbè, pazienza, è andata. Esce, va giù tutta la roba montonata, una sopra l'altra. Perché un ripiano che c'ho sotto, c'ho quattro baracchini in furo sopra l'altro casino. Il piano di l'alto so, televisore, alimentatori, DVD, altri baracchini, un casino, non si comprende nulla neanche. Infatti perché ho comprato altro legname prima di partire a operarmi? Ho detto quando ritorno, quando sono mito, me lo faccio. Infatti ancora sono luci. Piano piano. Piano piano te lo fai. Sì, in fretta non me ne mette nessuno, capito. E via, e vabbè dai. Adesso mi sdraio perché sono seduto. E non è che sto fatto bene seduto così. Oggi mangio fatto roba di 4 km a peli. Oh, yeah, non vedo, lo metti in dirobiuga. Già fatti me. Eppure già mi sono occupato a peli, per un poco. Ti sto per rimettermi in forma un po'. Quando si intende che cioè, ma la batteria ti sta allo problemi. Deve sì, non lo so. Lo uso poco sul microfono, sempre il microfono normale perché rimango coricato, capito? Tu pensa oggi sono andato a Marcello, consegnare la macchina, versare le targhe e tutto quanto, arrotolarla, eccetera. Poi ho chiamato il taxi, metto 10 minuti e sono andato io. 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 25 minuti, mi sono rotto le palle, me, ma fa culo. Mi sono avviato a piedi, Antò, e sono arrivato fino al corso. Ha giocato un me di carriera a piedi. Ah, la rotta matta? Gamba, non facevo più aggiustare il metro meccanico, ormai è arrivato, lascia perdere. Infatti domani vado a vedere un'altra macchina. Capo. Beh, se non anda, non anda. E l'altra volta sentivo che c'era un rumore strano. E le pulizie sono partite, è tutto un casino, no. E vabbè. Adesso ne sto cercando una a poco prezzo perché che mi fa fino a ottobre. A ottobre me la sto comprando nuova, capito? E già ce n'è. Già ce n'è a voglia. Domani devo andare a vedere questa K. Questa Ford K. Vediamo un po' com'è. Siamo con me e niente, non è preso. Deve essere, insomma, mi deve essere garantita che non prendo quella macchina, devo andare a Toro Meccanico, perché io di Nano ne voglio buoni più. A me se mi fa fino a ottobre sono l'uomo più felice del mondo. Poi tirare l'acqua, come l'ha fatto in luta. Capo. Mi ho pigliato un modello come antichi, ma mio amico mio, a un certo punto frate pure a fare l'impianto a gas a chi succiava benzina, tanto a... Quel tipo vecchio è qui, la tartaruga, come te la chiamano? È un truduccionio, però ce n'è, lui ce ne ha una che è 1003, però il motore non mi ricordo com'è. Guarda, la macchina va benissimo, va. L'unico problema che ha che bizzi un bel. Perché se mi serve solo per andare a lavoro, ne farò un po' di spesa, boh, basta. Poi, a ottobre me la compro nuova, credo una bella Panda diesel, multijet, e so che appunto, nuova. Chiappa, già ne trovi già. Ma ce ne sono anche di quelli lì che molte volte le regalano, cavolo, dici... Di che si lancia Y, punto. Molte volte le danno anche a poco prezzo, proprio. Che funzionano bene, mi funzionano una meraviglia. E questo ne voleva 5 300 è passato a 400, più c'è il passaggio da fare. Devo vedere che condizioni la macchina, perché certo non vado a buttare io quasi 800 euro perché c'è anche il passaggio, l'ho data la toppata, chi sono, in che condizioni il motore, la voglio provare e la porto al meccanico, amico mio. Dico, dimmi un po', se ne vale questa macchina? Se mi dici no, e allora se la mando. Certo. Quelle che andavano bene un motore fa il capo, che ti andava una meraviglia quelle lì, ma di gazzate sempre andando. Ma guarda, mia cugina c'ha una Ford Fiesta, un po' vecchiotta, non ne consuma nulla, casa mio, come carrozzeria, ottimo stato, si vede che non è nuova, però non ha meccature, non ha graffi, va bene, consuma poco, cosa vuoi di più? Sì, no, ce ne sono certi modelli che vanno bene, ma questo che ha questo amico mio, guarda, va bene di tutto, è una bomba anche di motore, gammina, non mi ricordo, forse è il 1400, non è neanche il 1300, 1400 il suo motore, l'unica cosa che va è consumo un po' di benzina, si è dovuto fare l'impianto a gas, si è dovuto fare. E questo è il 1200. Io avevo una Golf 1004, ma mi consumava più uso che benzina, per carità. Neanche fa la posta su Facebook, questo sta vendendo, una Golf e ha scritto, ha un piccolo difetto, consuma un bel po' di olio, da me ha scritto, mi come tra mia, la capelli. Per carità. Fa se non stia olio, lascia perdere. Ho visto la bella punto, c'è da rifare da testata, lascia perdere. C'è da dire tu, cioè, io voglio vedere la macchietta che è pronto ad andare a trovare Diana, bacia all'acqua, eccetera, senza polizia di niente. Per metterci soldi, tanto male rimanga a piedi il vostro bimbo. E aspetta ottobre. Appunto. Vabbè, se c'è un meccanico così, cioè se sono una distanza per andare a rifare, ci spendi pochi soldi. Tanto, però te la devi dare così, così come te, no? Solo un passaggio e boom. No, volevo 500 euro, vogliono tutto, capito? Non è freddo così. Oh, già per una festata, quelle 500-600 euro ci vogliono, lascia perdere. Sì, già si buffa pure, se molto la fa, già si buffa pure a 200 euro, 300 euro, tutti i dini. Sì, vabbè, vediamo. Comunque, questa è la prima macchina che vado a vedere. Non è detto che sto andando o sto andando in soldi, no. I soldi giustamente me la porto appresso. Vediamo, se mi piace, la provo, se va bene, è ok. Quindi, se no, ciccia, continuo a cercare. Allora, ne ho regalato una da poco, cavolo. È la macchina perfetta, Una Lancia Y, cazzo, c'era il motore che era un gioiello. Magari la trovo io una di cittotti per il passaggio, così non fa più il mollo. Magari, non la giunto in mancuna. Scappa. Me l'ha detto un amico mio, l'ha data subito, diciamo. Cioè, guardate, ho fatto il passaggio bossa di zira, cioè il motore è un gioiello proprio, perfetta la macchina. Bisogna trovare questa occasione, capito? Non usarci, vediamo. Se ne trovo qualche una, è bene, sono pazienza. Io ripeto, molti soldi non li voglio spendere perché so che sono soldi buttati, perché a ottobre me ne devo comprare una nuova, quindi adesso il passaggio poi a ottobre, 4 mesi di distanza, 4-5 mesi, cioè mi rompe, capito, soldi non ha fatti. Lo so, tu devi pigliare una che vada bene, cioè a poco prezzo e via, io so far camminare, poi te la pigli nuova, magari quella te la puoi anche rivendere. Cappa, l'ho perso, giusta, Cappa, esso cazzo, se fa da un fumo, di tutto questa macchina. Purtroppo sì, troppi soldi ho speso, roba di 6-7 mila euro sono per permesso a me, in 5 anni che sarebbero 6 anni. Sì, cazzo, è proprio sfortunata, Chi ce l'aveva l'ha toccata la cacchia di cane, proprio. Ho macchia un po' così. Allora. Andrà bene, va bene. Ecco voi che ti faccio. Voilà, multijet che abbiamo anche noi, che babbo. In ce l'abbiamo già 5-6 anni ce l'abbiamo. L'unica cosa che abbiamo fatto è una volta la frizione e basta, il motore è mai ducato, sempre cambiato l'olio e boh. Io questa che c'avevo la Forco, il Fado Focus, grazie a Dio, frizione una bomba, mai toccata, perché grazie a Dio, secondo come guidi la macchina, sempre più sulla frizione la bruci, io ho mai bruciato, è andata sempre bene. Niente, cambiato ammortizzatori, il cambio, il forno, si è fasciato, ma è già mezzo partita. A parte quello, poi altre cazzate, capito? Sempre soldi, soldi, soldi, andavano le mani bene, bombardia. È arrivato a questo punto anche me carico, ha detto al boh, ha messo il ponte, guarda che condizioni è arrivata, boh, dalla via, per prima, è stato onesto, non ti voglio mangiare altri soldi. Beh certo, no, quello che ho sempre che è successo che ha cambiato la frizione, perché si era rotta la pompa del gasolio, la frizione non va via nulla, non va via, si era rotta la pompa del gasolio ed è finita in mezzo alla frizione, slittava, era tutto inciuppito, tutto cosa, e quella volta solo abbiamo subito un danno grosso, poi non ha fatto più nulla. Ed è successo quel danno lì, se no purtroppo ci sono le macchine ben riuscite e le macchine mal riuscite, e poi dipende pure da chi che la guida, come la trappa, eccetera. E vabbè, andare nato che adesso mi sdraio, che sto male seduto, almeno mi riposo la schiena, gà. Che mi fa male sono le due ferite che sono dietro, quella ferita che ci ho davanti alla pancia, gà, grazie a Dio ancora non mi fa più male, ma dietro sì. Ok, dai, mo proseguo, mo ascolto, mo saluto neanche chi ci ascolto, ci sentiamo altro, che vengo ricco. Ciao ciao, domani. Ciao ciao Tony Bob. Ciao.